Giovedì, terza settimana, lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili. Dona un linguaggio mite che non conosca fremiti dell'orgoglio e dell'ira. Donaci occhi limpidi che vincano le torbide suggestioni del male. Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode. A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Prima antifona. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Seconda antifona. Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio Egli detiene il dominio. Ecco, Egli ha con sé il premio, e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore, Egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto, e conduce pian piano le pecore madri. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse? E gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza. Ecco, le nazioni son come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a Lui, come niente e vanità sono da Lui ritenute. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Terza antifona. Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Il Signore regna, tremino i popoli, siede su cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli. Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo. Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe. Esaltate il Signore nostro Dio. Prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva. Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato. Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo,